I libri cominciano in tanti modi, anche con un autobus preso al volo. La linea da Monteverde a Piazza Venezia, che già una volta, appesa al mancorrente davanti al Ministero dell'Istruzione pubblica allora, mi aveva aiutato a capire qualcosa della mia scrittura. Forse perché quei piccoli viaggi, in un tempo in cui i telefoni portatili non esistevano, erano gli unici spazi liberi in giornate zeppe di doveri. In un pomeriggio dei primi mesi del 1986, con una gran corsa presi il 44 alla fermata di Via Donna Olimpia, caso raro c'erano posti liberi. Alla fermata successiva, quando ancora cercavo di riprendere fiato, accanto a me si sedette una donna dai lineamenti vagamente noti e venne spontaneo salutarci, con quell'aria generica di quando la memoria non trova appigli. Sguardi, mezzi sorrisi. Poi ci decidemmo ad esporci quanto bastava per ricombinare il puzzle. Paola Di Cori, storica. Quello che potevamo ricostruire era dei tempi dell'università, quando, incrociandoci in situazioni tutte politiche, l'una dell'altra avevamo registrato di essere ebree. E quasi nient'altro. Un dato assolutamente irrilevante nel contesto di allora. Tanto da stupirsi di averlo annotato nella memoria. Scoprimmo di abitare a poche centinaia di metri l'una dall'altra. Cominciò una piccola consuetudine di caffè e chiacchierate, libri scambiati e informazioni. Sentivo Paola culturalmente più organizzata di me, più autorevole. Ero anche intimidita dal suo essere dentro a tante cose che conoscevo soltanto per sentito dire. Solo per difficoltà a oppormi con nettezza, accettai da lei quello che era quasi un ordine: devi venire da Giacometta. Giacometta Limentani, una bella testa di capelli bianchi su una faccia più giovane, occhi verdi un po' da maga, scrittrice, traduttrice, e Morà, maestra di sapienza ebraica. Mi affacciai alle sue lezioni con la fatica di tempi ritagliati su misura e con molte riluttanze, perché non mi ero mai occupata di studi biblici in vita mia e con nessuna voglia di farmi irretire in vischiosi tentativi di proselitismo. A me, come a tutti gli altri suoi scolari, Giacometta spiegò per prima cosa che lei diceva Dio, ma ciascuno poteva intenderlo come credeva, e questo mi rese più tranquilla sulla collocazione che avevo. Poi, in un tempo brevissimo, mi entusiasmò al Madresh, l'esegesi ebraica dei testi sacri. Madresh, che dalla radice dresh deriva il senso del ricercare, dell'interrogare, dell'investigare, un gioco intellettuale ricco di sorprese, e la chiamavo ginnastica mentale. Annusavo la pista come un detective, senza chiedermi cosa stessi inseguendo e perché. Mi bastava tornare dalle lezioni di Giacometta piena di idee, di stimoli, già con la sensazione di scoprire una vena sepolta, e forse non solo dentro di me. Stefano, il mio compagno, registrava i miei entusiasmi saggiamente. Ma pochi mesi dopo, quando per la prima volta fummo in grado di programmarci un viaggio, propose Israele. Avevo molte remore. Quelle politiche non erano le ultime. Un paese di cui molto avevo sentito parlare, un paese che mi spaventava per il reticolo di parentele che lo attraversava, un paese che non poteva comunque essere per me oggetto di un turismo qualsiasi. Partimmo subito dopo Natale. La difficoltà che sentivo, la paura, mi fece scrivere, prima di lasciare l'Italia, una lettera in cui disponevo della vita di mio figlio, per il caso ci fosse successo qualcosa. La prima impressione fu di grande confusione, di paesaggi, perché mi aspettavo il caldo e invece faceva freddo e pioveva, e il deserto non aveva sabbia, ma anemoni. Di sentimenti, per gli inviti che fioccavano da ogni parte, attraverso reti di parentele di cui faticavo a ricostruire le fila. Prima i cugini che avevo visto, seppure raramente, quando qualche volta erano venuti in Italia, poi piano piano anche i mai conosciuti o i perduti, quelli con i quali i rapporti dopo la guerra del 67 s'erano interrotti. C'era tutto un passato lì, custodito con cura e di cui io possedevo solo brandelli. Cominciai a domandare, mi risposero. Per affetto, per stima, per difendersi. Pensavano tutti che mio padre, durante la guerra dei 6 giorni, si fosse schierato contro lo Stato di Israele perché costretto dal partito o da Mosca. I più malevoli dicevano per salvarsi la carriera di dirigente. Ma chi era stato testimone allora anche del suo dolore, dell'angoscia che aveva per la famiglia che temeva spazzata via dalla guerra, distrutta, pur con sfumature diverse di dissenso, tuttora lo ritenevano parte di quella famiglia, una parte comunque importante. Attribuivo quella sua scelta e la durezza con cui l'aveva portata avanti ad altre ragioni, più di interna contraddizione che di obblighi esterni e oppressioni, senza riuscire a spiegarne con chiarezza i percorsi, la psicologia. In un modo o nell'altro, dovunque andassi, mi trovavo a sentir parlare dei sereni, padre, madre e soprattutto figli. A Revivim, di fronte a un caffè all'italiana in una stanza di kibbutz, per insofferenza di mia nonna Alfonsa, che tutti mi descrivevano perfetta, chiesi dell'altra nonna, Xenia. Yoel de Malach mi mostrò due libri di scritti suoi che erano stati pubblicati in ebraico. Poi mi organizzò una visita all'archivio di Efal, dove pensava avrei potuto trovare qualcosa su di lei. Complessivamente satura di famiglie, accettai di malavoglia e solo per non mostrarmi scortese. L'archivio modificava un programma già stabilito. Non mi sembrava che valesse granché la pena. Di nonna Xenia pensavo di sapere già tutto, che era scappata dalla Russia zarista con mia madre nella pancia, dopo la morte del marito congiurato, perché, avendo anche lei portato nella borsa della spesa qualche bomba, temeva di essere arrestata. Priva di parenti e non avendo nient'altro di meglio da fare, a un certo punto era andata in Palestina e lì era morta. L'avevo vista una sola volta, non aveva lasciato su di me una particolare impressione. Scritti suoi stampati erano già uno stupore, perché non avevo mai pensato che potesse essere un intellettuale. Il giorno dopo, di buon'ora per non rinunciare ai programmi, con l'autobus arrivammo ad Efal. Tante persone anziane, chine sui tavoli bene ordinati a compulsare manoscritti, a tradurre autobiografie e saggi, a registrare minuziosamente lettere, fotografie, documenti. Fuori un gran sole, il giardino. Un piccolo uomo gentile mi prese per mano, mi portò nel cuore climatizzato dell'archivio, mi mise di fronte ai materiali depositati lì. Mi aspettavano 28 scatoloni, tutta la vita di Xenia custodita in quegli armadi, religiosamente. Il piccolo uomo si chiamava Uri Kochba ed era il direttore dell'archivio. Ci capivamo con difficoltà, io parlavo il mio brutto francese e lui mi rispondeva in un inglese vago, venato di ebraico e di tedesco. Avrei voluto dirgli che dovevo andare via, che avevo altri programmi da rispettare, che Stefano forse preferiva la fortezza crociata di acqua ai miei privati affari di famiglia. Gli occhi del mio compagno, dolci e curiosi, mi aiutarono a restare. Affrontammo insieme la vertigine di fotografie e manoscritti, la maggior parte dei quali in russo, con annotazioni in ebraico dei ricercatori che le avevano ordinate. Non conosco il russo né tantomeno l'ebraico. Mi aggrappai ai pochi materiali in italiano. Fui punita da una lettera su carta di quaderno, la lettera di una bambina ben educata fino all'ipocrisia, che ero io. Più coraggioso di me, con meno remore e più sistematico, Stefano cercava di capire. Dal poco che si poteva intuire, emergevano comunque contraddizioni strane, al momento inesplicabili. Niente affatto priva di parenti, Xenia aveva scritto per anni a suo fratello, alla cognata, alla suocera, al nipote. Aveva conservato ritagli di giornali sui terroristi russi, sul loro arresto o la loro morte, annotandoli a margine come se gli eventi la riguardassero in prima persona. E soprattutto la quantità di carte, diari e appunti per conferenze, articoli per riviste, brevi saggi, lettere, dava l'impressione di una persona che aveva avuto con la scrittura un rapporto intenso, tutt'altro che episodico o casuale. Mi colpì anche la grafia, così simile a quella di mia madre, ma in quel momento, non capendo il russo, pensai a una coincidenza soltanto di segni. La curiosità cominciava a trasformarsi in irritazione per l'impotenza a decifrare tutte quelle parole che mi scorrevano sotto gli occhi. Dalle viscere dell'archivio apparve un vecchio alto, molto magro, che si appoggiava a un bastone senza che questo gli desse l'aria di sconfitta o rinuncia. Per l'intera giornata mi guidò passo dopo passo, io oberata di emozioni e lui tranquillo, senza segni di disagio o fatica, attraverso un labirinto di parole e immagini. Marcello, o in Israele Malchiel Savaldi, era fra i fondatori di Netzer Sereni, il kibbutz nato da una costola di Givat Brenner. Sapeva tutto di tutta la famiglia e perfino di me. Cominciò a raccontarmi di nonna Xenia una storia diversa. Uri, che apparteneva allo stesso kibbutz in cui lei aveva vissuto, si scusò di non avere ricordi di prima mano da offrirmi. Era stato per lungo tempo all'estero, mi disse, e solo da altri seppi che quell'estero era il lager. Ma altri a Naan, diceva Uri, serbavano memoria di lei, e c'erano altre lettere e oggetti, e la sua tomba. Mi invitò ad andare. Yaakov Yaakovi, Zippora Galili, Benjamin Kahlili, quelli che erano stati gli amici di Xenia, si stupivano che fossi arrivata così tardi, che non mi fosse venuto prima il desiderio di sapere, di renderle omaggio. Per un pomeriggio intero le loro domande e le mie, tradotte da Sandra Montefiore che appianava difficoltà di punti di vista differenti, scabrosità. In piccolo corteo andammo a visitare la tomba di una greco ortodossa dentro al piccolo cimitero ebraico del kibbutz. Sulla lapide il nome scritto grandissimo. Come di chi sia talmente amato da non aver bisogno di cognome. Poi la fotografia di Xenia in biblioteca come un nume tutelare, il fiore secco della fortezza di Pietro e Paolo custodito nell'angolo del ricordo, grandi emozioni da amministrare e non sempre ci riuscii al meglio. A San Giovanni d'Acri la fortezza e la moschea, un pranzo da turisti sul mare, le fotografie al mare in burrasca, una pausa. Un respiro. Poi Gerusalemme. Non vedevo zia Ada da 20 anni. Con lei la frattura della guerra dei 6 giorni era stata particolarmente dura. Ero molto giovane allora e non riuscivo lontanamente a immaginare di farmi ponte fra mio padre e la sua famiglia, nei confronti della quale non nutrivo comunque particolare interesse. Riconobbi per prima cosa la voce, identica negli anni. Poi la testa altera, il portamento da ambasciatrice o da regina. Era il pomeriggio dell'ultimo dell'anno. Con il mio compagno avevamo pensato di vederla per un'ora o due e poi cenare per conto nostro al ristorante francese già prenotato. Nella sua casa tutta italiana, aperta sulla rosa delle mura, zia Ada cominciò a raccontare, scegliendo visibilmente fra le cose da dire e quelle da tacere. Per non ferirmi, dopo tutti quegli anni di silenzio, e per riannodare i fili. Da lei, che poteva essere la più distante, percepii con nettezza definitiva che ero innanzitutto parte della famiglia, una famiglia allargata e intera di zii e nonni, cugini e nipoti, e solo in seconda battuta la figlia di Mimmo. Un cambiamento di ottica radicale, per una come me abituata da anni a considerarsi spoglia di legami. Poi sua figlia Hagar preparò la cena e a mezzanotte brindammo con un liquore italiano. Dopo, in albergo, con una bottiglia di cattivo spumante israeliano acquistata a carissimo prezzo, tentammo di fare un po' d'ordine fra le tante notizie raccolte e all'improvviso, mentre riempivo ancora il bicchiere, mi balzò incontro l'evidenza di qualcosa che nessuno mi aveva dichiaratamente nascosto, ma che nessuno mai mi aveva detto chiaramente. Che mio padre non era sempre stato comunista e che le ragioni per cui aveva scelto per la vita di interessarsi di agricoltura erano state alla partenza altre. Tornai con un gran disordine nelle idee e nei bagagli colmi di regali e suggestioni. La ricerca era già cominciata benché ancora prevalesse lo spaesamento. Anzi, la ricerca era cominciata in verità assai prima e neanch'io so dire quando. Forse quando Pietro Grifoni mi aveva stupito con le notizie delle difficoltà attraversate da mio padre all'interno del partito, registrate dagli studiosi, ma di cui in casa mai avevo sentito far cenno. O magari quando avevo chiesto di incontrare Giorgio Amendola per sapere di loro, di mio padre e mia madre, come erano stati davvero e non soltanto come si erano consegnati alla storia. Amendola imponente, ma già molto smagrito, con i capelli cortissimi, seduto alla scrivania del suo ufficio a botteghe oscure. Una stanza simile, forse sullo stesso piano del palazzo, era stata l'ufficio di mio padre. Non solo, per questa ragione mi ero figurata che tutti i dirigenti comunisti fossero forgiati nello stesso stampo, con gli stessi silenzi, le stesse rigidità, i moralismi. Però Amendola aveva pubblicato Lettere da Milano e poi Una scelta di vita, di cui mio padre si era irritato come di indiscrezioni inutili o potenzialmente dannose. Quell'indiscrezione rendeva interessante Amendola per me e mi spingeva a interrogarlo. Rimasi di sasso, per stupore e disagio, quando come esordio ovvio mi disse che tutti, e lui per primo, negli anni di Napoli erano colmi di ammirazione per la castità di Mimmo e Xenia, esibita e motivata prima del matrimonio. Dopo, soltanto dopo e come recitando una lezione, disse delle doti intellettuali e politiche e mnemoniche di mio padre, senza passione e senza rivelarmi nient'altro che non sapessi. Oppure il filo affettuoso della ricerca mi era stato affidato da Enrica Roccas, parente lontana e acquisita, eletta a zia per simpatia, che con pazienza negli anni mi aveva tessuto attorno una trama familiare di racconti e protezione, di cerimoniale ebraico sorridente e di concreti aiuti a vivere. Oppure da sempre, per tutto quello che non ho saputo o non ho voluto sapere. Per le risposte negate e per le domande che non ho posto al momento opportuno, come se il silenzio fosse indispensabile a un primo ordine. Tornata da Israele per cercare un bandolo, mi sembrò di avere bisogno di voci autorevoli, però non raggelate nell'ortodossia dei segreti e delle contraddizioni sanate per volontà. Per incontrare Vittorio Foa mi vestii con sobrietà particolare, inforcai gli occhiali che allora non portavo quasi mai. Per scelte familiari o per scelte mie, o per timidezza, il mondo della politica alta dopo l'infanzia non l'ho più frequentato. Così ne ho un rispetto timoroso, perché dentro, ogni volta, piani diversi mi si confondono. All'inizio faticai con frasi neutre, evitando il lei che poteva farlo vecchio, come il tu che non riuscivo a permettermi. Pensavo di chiedergli di mio padre perché di quello pensavo potesse raccontarmi, e invece lui subito cominciò a dire di nonna Xenia e del bisogno che c'era di raccontarla com'era stata, una rivoluzionaria, e non come la piccola donna noiosamente iperprotettiva che mia madre aveva descritto nel suo libro. E poi per mio padre bisognava che mettessi insieme l'ortodossia giovanile e il sionismo, e i rapporti con Enzo, e l'arresto in Unione Sovietica, e molte altre cose. Irruento, entusiasta, curioso, forse non si accorse del mio disagio. La vastità della mia ignoranza mi annichiliva. Ripresi in mano il libro di mia madre, I giorni della nostra vita, con altri occhi. Per tante e tante letture, fino a quel momento erano stati occhi di orfana, che cercavano in quelle pagine un calore svanito, con una frustrazione costante e il senso di una distanza invalicabile. Perché in quel libro, pubblicato per essere vangelo di una generazione di donne comuniste, c'erano menzogne che non avevo saputo leggere, censure, omissioni. Cominciando a indagarne la trama e le ragioni, cominciai a costruirmi una storia. Il bisogno di studiare, di capire. Come al solito in un gran disordine, con un moltiplicarsi di rivoli cui solo a posteriori e non sempre riesco ad attribuire un senso. Oltre alle lezioni di Giacometta, presi a frequentare quelle per me assai più difficili, di Riccardo Di Segni, tutte incentrate in quel periodo sull'eredità ebraica per via materna. Riflettevo sulla genealogia femminile, da mia nonna a mia madre e a me, tranquilla per il resto di un'identità ebraica almeno culturale, benché l'appartenenza non sia mai stata sancita da cerimonie. Ma un giorno, durante una lezione, mi trovai a chiedermi se davvero lo ero da un punto di vista giurisprudenziale. Mia madre non era certamente nata ebrea e non sapevo se si fosse convertita, non sapevo se il matrimonio dei miei genitori fosse stato o no al tempio. Interrogai Alberto Milano, memoria colta e sistematica della famiglia. Mi mostrò fotografie e lettere, mi raccontò i suoi ricordi, ma di questo, e si rammaricò, non sapeva. Ma io dovevo appurarlo assolutamente, perché non era irrilevante la celebrazione in sinagoga, dopo che già mio padre aveva deciso di essere comunista. E forse perché volevo sciogliermi un nodo di ambiguità tutto mio. Alla comunità israelitica mi dissero che era impossibile verificare, che i registri di quegli anni erano perduti, distrutti, andati a fuoco, e sembrava che anche lì tutto fosse destinato a perdersi nell'incertezza, nell'approssimazione. Allora mi decisi a chiedere un incontro con Manlio Rossi Doria, l'amico fraterno di mio padre poi cancellato dalla sua vita e che perciò non avevo mai conosciuto. Ebbi da lui calore e accoglienza, molte informazioni e le sue memorie in anteprima preziose. La gioia tranquilla del ricordo, il titolo del suo libro uscito postumo, rispecchia appieno la sensazione che provai allora, sentendolo parlare di quell'amicizia perduta con affetto critico, ma affatto privo di risentimento. Rossi Doria mi disse del matrimonio e negli stessi giorni, per le ricerche compiute, venne una conferma dalla comunità israelitica. Ma ora non mi bastava più. Avevo fame di documenti, di cose scritte con apparenze di verità e certezza. Enzo Santarelli mi consigliò l'archivio centrale dello Stato, però me ne mancava il coraggio. Le carte conservate in biblioteche o archivi di gran mole mi hanno sempre intimorita. Se non fosse stato per Enzo e per sua figlia Nora che mi indicò gli estremi della busta intestata a Xenia Silberberg, forse non sarei mai riuscita a decidermi. Il primo tuffo nell'archivio di Stato confermò tutte le mie incertezze. La Xenia della busta non era mia nonna, come avevo creduto, ma mia madre. Per mio padre mancava il dispositivo della sentenza del Tribunale Speciale e fu ancora Santarelli a farmelo avere da altra fonte. Nel fascicolo intestato a Enzo, la morte di Enrico si confondeva con il carcere di Mimmo. L'idea che avevo in mente, il bisogno dei tre fratelli di farsi a ogni costo diversi perché costruiti troppo uguali, trovava nelle carte una paradossale burocratica conferma. Di altre confusioni, di altri silenzi, di altri misteri non riuscii a trovare il senso. Malgrado Marina Giacchetto, la giovane responsabile del settore che mi interessava, mettesse a mia disposizione le sue competenze, abbreviandomi i tempi di consultazione. Piene di polvere, attente a non pungerci con gli spilli rugginosi che tenevano insieme i fogli, trovammo insieme alcuni documenti e insieme ci interrogammo su tutto quello che mancava. Per esempio, nei corposi fascicoli sui russi da sorvegliare, Xenia non c'era mai. E l'unica occasione in cui si trovava traccia di lei non faceva che sottolineare gli interrogativi che la riguardavano. In compenso c'erano le liste dei libri che mio padre chiedeva di poter ricevere in carcere, le punizioni che gli erano state inflitte per aver scritto su striscioline di carta, ad esempio, e una gran quantità di corrispondenza privata, familiare, persino lettere d'amore intercettate dalla censura fascista che, come le delazioni legate alle leggi razziali, preferì per ragioni diverse non leggere. Fotocopie, appunti disordinati, notizie raccolte da fonti disparate. Quando cominciai a pensarlo come un libro, ne parlai con Roberta Mazzanti e subito si scatenò un uragano di coincidenze, strani legami di parole e pagine e persone, non solo fra lei e me, ma fra suo nonno e il mio. Quando il lavoro è benedetto, il Dio te lo manda incontro, commentò Placida Giacometta ai miei racconti. Frase ripetuta più volte, perché le coincidenze si susseguivano. Ogni volta una scossa, ogni volta la necessità di rimettere a posto i pezzettini dentro di me. Perché tutto mi era stato raccontato in maniera diversa dal reale e per ragioni non sempre comprensibili. In un momento già complicato della ricerca, andai a Napoli per una conferenza, intenzionata a guardarmi attorno il meno possibile per non provocare coincidenze che avrebbero aumentato la mia confusione. Fra Napoli e Portici i miei avevano vissuto una parte importante della loro vita, dunque le possibilità erano molteplici. Perciò dalla stazione andai con un taxi direttamente alla sede del convegno, senza neanche fermarmi a prendere un caffè per non stuzzicare la sorte. Arrivai in anticipo. Nel palazzo consumato dalla storia, l'aula dei lavori era ancora chiusa. Per non rischiare l'esterno, pensai di limitarmi a quel piano, alle sale adiacenti. Dietro una colonna, una porta, una piccola mostra. E per ingannare il tempo, pensai di dare un'occhiata da turista. Un plastico. Materiali e didascalie. L'acquarium di Napoli, la stazione biologica che mio zio Enrico dirigeva quando morì. Mi sentii in trappola. Da allora e per lungo tempo il libro si chiamò Samarcanda, per dire dell'impossibilità di sfuggire al destino una volta che il meccanismo si è innescato. Tornai in Israele stavolta con un programma più preciso e di ricerca. Ancora la gentilezza paziente di Uri Kochba e di sua moglie Adina. Sembrava, per la mia ignoranza, un obiettivo impossibile e invece dall'archivio di Efal alla fine l'originale in russo delle memorie di nonna Xenia venne fuori e lettere che mi interessavano e un racconto che aveva scritto sui suoi rapporti con la figlia. Poi l'incontro con Ruth Bondi, che aveva scritto una biografia di zio Enzo. e mi disse anche le cose che nel suo The Emissary non aveva ritenuto di registrare. E l'archivio di Givat Brenner, la scrittura ordinata di Savaldi che aveva elencato pubblicazioni e lettere, l'attenzione meticolosa e deferente nel maneggiarle di Jakov Viterbo. Per incontrarci, Silvana Castelnuovo mi invitò nella casa per anziani dove viveva, un residence niente affatto triste, con un ristorante sempre pieno di ospiti di ogni età. Che quel luogo potesse condizionare mie scelte successive, allora non mi passò proprio per la testa. Aperta e ironica, malgrado i suoi oltre 80 anni, Silvana mise a mia disposizione altre angolazioni, altri punti di vista. L'orizzonte si ampliava sempre più, come il mare abbacinante di Bat Yam che avevamo davanti. Senza la sua stima e il suo affetto, forse avrei rinunciato a tuffarmici. Instancabile, grande camminatrice, stupita dei taxi che prendevo per attraversare città e sobborghi, Silvana mi combinò un gran numero di incontri e contatti. Però non si sentiva di farmi da interprete, dicendosi affaticata dai rapporti interni alla casa per anziani, dover parlare in francese con il vicino di sinistra, in tedesco con quello di destra, in inglese con nuovi arrivati dai quattro angoli del mondo. Chiese l'aiuto di Paula de Malac, che partì molto presto al mattino da Revivim per aiutarmi a capire e a farmi capire. In ogni casa dolci e caffè, e il dono della memoria e dell'accoglienza offerto da tanti dei miei parenti, e non li elenco tutti per non dimenticare nessuno. Qualche interrogativo trovava risposta, ma ne rimanevano tanti che non riuscivo neanche a formulare. Tornai con grandi pacchi di fotocopie. Molti di quei materiali erano in russo o in ebraico, dunque per me quelle pagine restavano in larga misura mute. Per tradurle, il problema non era semplicemente di denaro. Proprio perché non sapevo cosa ci fosse dentro, non mi sentivo di affidare a chiunque quelle carte. Ma i fili, anche a mia insaputa, pian piano andavano riannodandosi. I figli dei figli percorrevano proprie strade e qualcuna di queste arrivava fin qui, in Italia, a Roma. Mia cugina Agar mi invitò al matrimonio di suo figlio Alon, il nipote di Enzo che sposava un'italiana. Alon è uno storico che, per aver girato un bel po' di mondo, ha sviluppato la conoscenza di varie lingue. Più ancora delle traduzioni che fece per me, però, o dei testi che rintracciò per me nei luoghi più disparati, mi fu utile la sua curiosità, la sua intelligenza critica, gli strumenti del suo mestiere uniti a quelli dell'affetto. E tutte le innumerevoli volte che parlavamo di questo libro, delle ricerche, dei problemi e degli interrogativi, la traccia delle radici comuni si faceva più visibile, ma insieme diventavamo un po' più individui e un po' meno cugini, più forti, più capaci di indagare i rapporti intricati che avevamo alle spalle senza farcene schiacciare. Le parentele, però, non passano soltanto attraverso il sangue. I cromosomi delle genealogie politiche possono creare legami altrettanto forti, oppure inimicizie furibonde, come accade appunto fra consanguinei. Quando chiesi per i testi in russo l'aiuto di Ludmila Grieco, l'esistenza di quel retroterra comune mi aiutò a superare i dubbi, l'incertezza del panorama totalmente nuovo sul quale stavo per affacciarmi, perché fu lei a leggere per intero le memorie di nonna Xenia, a segnalarmene gli aspetti più interessanti, a dettare al registratore le parti di cui avevo bisogno, scritte in prima persona. E la sua bella voce, lontanamente e dolcemente venata di russo, mi è arrivata come parola diretta, come emozione di una genealogia femminile ininterrotta. Dalla voce di Liuda ho capito che non potevo raccontarla soltanto io questa storia, ma che dovevo consentire a Xenia e a tutti gli altri di prendere la parola. Benché resti l'arbitrio e la responsabilità, che è quella di aver scelto, tagliato, montato i materiali secondo un punto di vista che è il mio, all'interno di una narrazione che ha solo parziali agganci nelle memorie, le loro pagine li restituiscono persone e non soltanto personaggi di una trama straordinariamente avventurosa e drammatica. Fu difficile in alcuni momenti, e soprattutto per quanto riguarda mio padre, raccogliere dalle pagine e dentro di me una nota personale, qualcosa che superasse i toni roboanti della politica o quelli controllati della saggistica. L'archivio della Fondazione Gramsci rimase per me sostanzialmente muto, malgrado la collaborazione generosa di Fabrizio Zitelli e Marcello Forti, e molti incontri non diedero frutti che io fossi capace di utilizzare, per l'incapacità mia di fare le domande giuste o per la difficoltà di molti a distanziarsi da vicende che ancora non si riesce a rileggere. provò a rileggerle Giancarlo Paglietta in una serata estiva quasi casuale, raccontando a me e a se stesso del progressivo ammutolire di mio padre e dell'incapacità di tutti i compagni a chiedergliene le ragioni. In una scissione fra politico e privato che era per lui, ancora in quel momento, motivo di fierezza. Per Miriam Mafai e Giovanna Paglietta, per Stefano e per me, mentre ascoltavamo nullo parlare, quella scissione appariva non più ammissibile, non riuscivamo neanche a pensarla. Forse perché la vicinanza, le delusioni, il dolore rendono più difficile l'accesso e la comprensione proprio a noi che siamo comunque figli degli anni spietati e continuiamo a portarci lì dentro. Probabilmente solo qualcuno che sia compiutamente laico, davvero esterno a logiche di schieramento e di bandiera, sciolto da vincoli di una storia e di un mondo ormai definitivamente scomparsi, potrà raccontarmi un giorno per intero la mia storia con un'approssimazione di verità più consistente. Quasi tutto questo libro è stato scritto a ridosso dell'89. La scossa enorme era stata registrata, ma ancora non se ne percepiva tutta la portata. Io sono, e non può che essere così, una ragazza del secolo scorso, quando si usavano termini ormai scomparsi, imperialismo e guerrafondaio, per esempio, o cellulare, che forse anche adesso significa prigione che non ci lascia mai, ma non nel senso del furgone blindato della polizia, in genere attorniato da famigerati celerini. E neanche internazionalismo, magari proletario. Nel mondo globalizzato dal quale siamo sovrastati, è termine che si senta pronunciare. Resto convinta però che quel mondo e quella storia vadano ancora indagati, certamente non cancellati o rimossi, cosa che spesso accade, credo per pigrizia e ignoranza, più che per scelta deliberata. Ad esempio, la storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni è tuttora libro di testo in diverse facoltà universitarie, ma quasi nessuno, non solo fra gli studenti, sa più chi lui fosse. E ancora, nelle varie commemorazioni e ricostruzioni, quelle intorno agli anniversari del 25 aprile, per citarne solo un caso, il nome di Sereni è citato poco o niente, malgrado fosse, insieme a Valiani e Pertini, membro del triumvirato che da Milano decretò e guidò l'insurrezione nazionale. Fino a qualche tempo fa attribuivo questa sorta di damnatio nominis a questioni interne al PC, e qualcuno mi ha parlato del resto di dissensi dentro al gruppo dirigente e di un suo allontanamento per stalinismo, ma chi non fu stalinista in certi anni? Ed è probabile che per un certo periodo questa fosse la causa dei silenzi, ma oggi, adesso, mi sono convinta che ormai la questione sia molto più banale, e soprattutto per quanto concerne i giornalisti e una certa svagata sciatteria. Se nessuno ti ha citato ieri o l'altro ieri, oggi non ti citerò, e ancor meno domani. Come i movimenti del 68 e del 77 vengono appiattiti in un unico giudizio sommario secondo il quale furono una sola cosa, il cui prodotto si ridusse agli anni di piombo. E anche questo ho tentato di contrastare raccontandoli. Così la storia del PC sembra tornata ad essere quella secondo cui i comunisti mangiavano i bambini e si nega qualunque apporto alla civilizzazione e al progresso dell'Italia. Se questo libro potesse aiutare qualcuno a leggere come più articolate e complesse la storia e le singole storie, allora per me varrebbe la pena e la fatica di averlo scritto. Ci sono pochissime date in questo libro e i grandi eventi della storia vengono solo accennati e utilizzati come sfondo. La figlia sedicenne di un amico mi disse anni fa di averlo letto tutto d'un fiato, ma di aver dovuto poi chiedere molte cose a suo padre, suscitare domande in una generazione che, non per propria responsabilità, ha perso il senso della storia e dell'importanza che questa ha per interpretare l'oggi e immaginare il domani, forse anche per questo ne vale la pena. Il tentativo di raccontare la storia attraverso singole storie, di far entrare il lettore e la lettrice nel cuore degli eventi dal basso e non dall'alto, è qualcosa che torno a sperimentare spesso, sperando che le emozioni raggiungano chi legge più narrativa che saggi. È il meccanismo che ho utilizzato anche più di recente, per esempio con Una storia chiusa. Resta da dire di tutti quelli che mi hanno sostenuto, contraddetto, incoraggiato, consigliato, quelli che mi hanno fornito informazioni, materiali, indicazioni bibliografiche o di fonti, quelli che hanno accettato che rivolgessi ad altri le domande che avrei dovuto porre a loro, quelli che si sono irritati del lavoro che stavo facendo e poi lo hanno accettato, praticamente tutti quelli a cui voglio bene e che mi hanno aiutato a stare al mondo. il mondo che è fuori dalle pagine, molto più difficile da organizzare. Ma su tutti e a grande distanza, Stefano, che ora anche per me è Stefano Rulli, senza di lui non ce l'avrei mai fatta. Come quando capitò, per esempio, che leggendo per l'ennesima volta il libro di mia madre mi ritrovai all'improvviso sciolta e affogata in un vero e proprio lago di lacrime. Andai da lui singhiozzando, chiedendogli e chiedendomi cosa diavolo mi stesse succedendo. Mi abbracciò a lungo. Quando fui un po' più calma, disse con saggia pacatezza: «Sarà che finalmente hai accettato fino in fondo il fatto che tua mamma sia morta?» Qualcuno, dopo la pubblicazione del libro, mi ha chiesto perché mostrassi tanto malanimo nei confronti di mia madre. Che cos'è che non le perdonavo? Di essere morta, risposi istintivamente. E certo nel delinearne il carattere questo deve avere influito. Ma anche adesso, molto a posteriori, resto convinta del punto di vista che ho espresso su di lei. Oppure quando gli chiesi di prendermi a calci, se mai fossi piombata in una crisi mistica dovuta a tutto quell'occuparmi di ebraismo, e ancora senza scomporsi citò: «Lo spirito soffia dove vuole». E di nuovo un abbraccio, ma più ironico che di sostegno. Insomma, per venire a capo di questo libro ebbi bisogno di molti abbracci e di molta condivisione, di tutta la sua cultura e di tutta la sua intelligenza. Qualunque cosa accada e sia accaduta, di tutto quel che ho sfruttato non solo per questo libro, gli sarò grata per sempre. E c'era la sua competenza di sceneggiatore, più efficace di quella di qualunque editor mi abbia negli anni aiutata nel mio lavoro. Perché il film è un'opera collettiva e chi costruisce un film è abituato a discutere ogni riga del testo e soprattutto l'intreccio, il percorso dei personaggi, la loro psicologia. Perciò, se ogni tanto per evitare un nodo che era dentro di me doloroso da affrontare, magari io costruivo una bella frase ben infiocchettata, lui la individuava, mi conosceva troppo bene, non me la faceva passare liscia. Non che accettassi sempre proposte e suggerimenti, ma certo quel confronto mi è stato di grandissima utilità. Non è per caso che dopo, per i libri successivi, mi sia rivolto ancora un amico sceneggiatore, Giorgio Arlorio, per discutere, verificare e scoprire i miei imbrogli. Poi il libro è andato alle stampe. Un lavoro gravoso si era finalmente concluso. Tirati giù dalla ribalta della storia, tanti fantasmi sono diventati in buona misura persone prima e personaggi poi. Le fotografie di cui quasi ossessivamente avevo costellato la mia stanza hanno via via assunto un senso naturale di testimonianza e non sono più scatole ostilmente chiuse. C'è un ordine, benché permanga precario e suscettibile di modificazioni infinite. E modificazioni davvero senza fine mi sono arrivate negli anni e tuttora mi arrivano, da saggi concernenti aspetti diversissimi del libro e spesso connessi ad altre ricerche, altre narrazioni. Un vuoto allo stomaco ogni volta che mi è stata posta una domanda a proposito di quel che ho scritto. Peggio se me ne si è chiesto conto. Perché se è vero che all'archivio Bonsanti ho depositato una dozzina di faldoni con i materiali del libro, è altrettanto vero che non ho mai fatto schede di ricerca o appunti strutturati o indici scalette. Un metodo da qualche parte lo utilizzo, evidentemente, ma su tutto prevale un gran disordine, nel quale ormai faccio anch'io fatica a raccapezzarmi. Qualcosa so comunque con certezza, che questo è un romanzo, nel senso che molto ho inventato e costruito nella mia testa, e però al tempo stesso l'avvio è partito nella maggior parte dei casi dai ricordi o testimonianze o documenti, perciò tenendo costantemente conto del carattere delle persone e cercando di rispettarlo. Ho ad esempio inventato che Alfonso ogni tanto bevesse. Non avrei mai potuto inventare che avesse un amante. Ho inventato soprattutto per quanto riguarda le donne. Per me le vere protagoniste di questo libro, perché il loro spazio nella scrittura e nei ricordi era minore, sempre in secondo piano, taciute, interpretate come sorta di protesi degli uomini cui erano accanto. È curioso che critici illustri, ma anche cineasti di tutto rilievo e profondità, rispetto a questo libro si siano in misura assolutamente prevalente interessati alle figure maschili, con mia notevole delusione. Forse non sono stata abbastanza brava io a raccontarle, ma penso anche che i pregiudizi sulle donne siano talmente radicati nella testa dei maschi che non basta certo un libro a modificarli. Cerco ancora che mi racconti la mia storia con un occhio diverso, Giorgio Vecchio, che da anni, da storico, esplora la vita e gli scritti di Emilio Sereni, mi ha offerto una quantità di spunti di riflessione che posso soltanto accogliere senza obiettare. Ha compulsato documenti, verificato agende preziose, curato in maniera particolarmente pregevole il diario 1946-1952, finalmente dato alle stampe dopo anni di tentennamenti e discussioni familiari. Non ha sostanzialmente modificato i miei punti di vista, né li ha modificati ma solo arricchiti Tullio Seppilli, grande antropologo che, divertendosi e divertendomi, molto mi ha raccontato non solo di mio padre, al quale è stato a lungo vicino, ma anche del Partito Comunista Italiano degli anni 50. Solo di recente è venuto fuori che, come tutti gli ebrei che si rispettino, siamo anche parenti, ma le consonanze fra di noi, dall'interesse per la musica popolare fino alle citazioni in più occasioni di A coloro che verranno di Brecht, autore oggi ignorato dei più, sono tante e affettuosamente importanti per me. Ma una voce nuova c'è già, Puma Valentina Scricciolo, ricercatrice attenta fino alla testardaggine e dotata di molti strumenti, che per età potrebbe essermi figlia se non addirittura nipote, ha cominciato a trovare materiali non irrilevanti che io non avevo visto, cosa che mi spaventa anche un po'. Senza il suo aiuto non sarei venuta a capo di questa revisione e confido che il suo sguardo di donna farà una differenza che saprà raccontare. Poi ci sono le testimonianze. Al libro uscito, negli anni me ne sono arrivate molte, spesso confliggenti tra di loro. Perché anche la memoria personale è qualcosa che si modifica in continuazione, così come si modifica quasi ciascuna delle verità che ci raccontiamo. Un solo esempio. A tutt'oggi non so chi fornì a mio padre i documenti falsi per la fuga in Francia, perché almeno 3 persone se ne sono assunte la responsabilità. Nel revisionare il testo ho fatto una mia scelta, ma non è detto che sia quella giusta. Anche alcune letture fatte negli anni condizionano le mie riflessioni oggi, benché non abbiano prodotto modificazioni sul testo. Ad esempio, Danny l'eletto di Chaim Potok, nel quale il silenzio greve di un padre rabbino offre a suo figlio uno spazio di autonomia altrimenti impensabile. Carlo Brutti, lui profondamente cattolico, al quale molto devo sul piano personale e familiare, mi consigliò questo libro e poi mi regalò Jossel Rakover si rivolge a Dio, uno strano caso letterario che molto ha contribuito alla mia riflessione sull'essere ebrea, che solo con molto ritardo ho capito essere radicata nell'orgoglio di mio padre di esserlo. Perché uno degli interrogativi di fondo, quasi un'ossessione, è l'essere ebrei a prescindere da un credo religioso, avendo dentro in ogni caso i solchi profondi di una cultura e di un'etica diverse, per me italiana, dalla cultura cattolica che comunque informa il paese in cui vivo. Una differenza che mi appare più chiara via via che gli anni passano, una riflessione che ha avuto un effetto moltiplicatore dal lavoro per questo libro. Qualcuno mi chiese una volta perché nei miei scritti ci sia sempre un sentimento da esule, da persona fuori da nidi sicuri. Risposi a bruciapelo che c'entrava il mio essere giudia. Dissi proprio così, giudia. Non so se fosse proprio la risposta giusta, ma altre ad oggi non ne ho trovate. Punti di vista che cambiano, opinioni che si trasformano. Chi è stato spostato tante volte da uno scaffale all'altro, dalla mia stanza a quello di mio figlio, fino al ripiano più alto della mia libreria ormai piccola, è l'orso Mishka. La mia dotazione di libri è ridotta oggi all'essenziale, pochi titoli del cuore di cui non immagino di poter fare a meno e il resto ruota, via via che leggo regalo o scambio e in molti anni un unico titolo si è aggiunto a quelli storici perché ho ritenuto che ne valesse la pena. Da lì, fra i libri mai più senza, Mishka, per il quale ho lavorato all'uncinetto un berretto e una sciarpa che lo tengono al riparo dalle intemperie, mi guarda. L'emozione che mi trasmette non muta. E sospetto che custodisca ancora molte eredità nella sua pancia spelacchiata e consunta, che a premerla nel modo giusto, con attenzione e memoria, forse tuttora è capace di suonare. Perugia, novembre 1992, marzo 2017.